Europa 24. Nuovo appuntamento con Europa 24. L'economia dell'Eurozona perde slancio nel terzo trimestre. La crescita dell'area euro rallenterà e l'espansione proseguirà ad un ritmo modesto. Lo si legge nel bollettino mensile della BCE, secondo cui sulla ripresa continuerà a pesare, fra l'altro, un elevato tasso di disoccupazione. In merito all'Italia, la BCE scrive che permangono rischi sul conseguimento degli obiettivi di deficit 2014, specialmente a causa dell'andamento delle economia peggiore del previsto. A rischio l'obiettivo del governo italiano sui conti pubblici per il 2014, lo scrive oggi la Banca Centrale Europea nel suo bollettino mensile. Secondo la BCE, il pericolo del mancato raggiungimento del target, un deficit pari al 2,6% del prodotto interno lordo, deriva dall'evoluzione negativa dell'economia che sta andando peggio del previsto. La BCE sollecita quindi il governo a rafforzare ulteriormente la politica di bilancio. Il tema della politica fiscale è stato recentemente al centro del dibattito europeo, con Italia e Francia che ha appena annunciato che rinvierà la riduzione del deficit al 3% al 2017, che premono per un allentamento dell'austerità, e la Germania sul fronte opposto. Sulla questione è intervenuto di recente anche il presidente della BCE, Mario Draghi, sostenendo che pur nel rispetto delle regole attuali possono essere utilizzati tutti i margini di flessibilità esistenti. Draghi parlerà stasera a un convegno a Milano e ci si aspetta anche che spieghi le misure adottate la settimana scorsa dalla BCE per il rilancio del credito nel tentativo di far ripartire la crescita stagnante dell'Eurozona. Il tema dell'austerità fiscale, insieme a proposte per il rilancio degli investimenti nell'area euro, verrà discusso domani e dopo qui a Milano alle riunioni dell'Eurogruppo e dell'Ecofin sotto la presidenza italiana. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano. E la Commissione europea ha diffuso oggi il rapporto sulla competitività industriale europea. È un quadro in chiaro scuro della competitività industriale europea, quello presentato stamani dalla Commissione. L'Italia in particolare è in evidente difficoltà. Ha perso 500.000 posti di lavoro in questo settore cruciale tra il 2007 e il 2012. Nello stesso periodo il numero di imprese manifatturiere è sceso del 19%. Ciò detto, ci sono aspetti positivi. Sul fronte energetico, l'industria italiana tra il 2007 e il 2012 ha ridotto il suo impatto ambientale del 3,5% all'anno. Sul versante dell'export, le imprese si stanno concentrando su mercati extraeuropei e stanno puntando sempre più su prodotti ad alta tecnologia. La pubblica amministrazione, per non parlare del familismo, sono ostacoli evidenti, ma secondo la Commissione europea le ultime semplificazioni amministrative decise dai più recenti governi stanno portando benefici alle imprese. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Messaggio del Ministro per l'Agricoltura Maurizio Martina al Commissario europeo per l'Agricoltura e per lo Sviluppo Rurale Dacian Ciolos, a seguito della notizia relativa alla decisione della Commissione europea di sospendere le misure di emergenza introdotte dopo l'embargo russo per frutta e verdura deperibile. L'Unione europea, scrive Martina, deve superare immediatamente lo stop agli aiuti introdotti dopo l'embargo russo per frutta e verdura deperibile affinché ci sia una risposta concreta per le imprese che non possono tollerare ulteriori ritardi, sottolineando la necessità di intervenire in modo tempestivo per non causare ulteriori danni al settore. Il Parlamento europeo è in campo accanto all'UEFA nella partita contro il razzismo, così Cécile Kyenge, che è intervenuta alla conferenza sull'integrazione e la lotta al razzismo nel calcio promossa dal governo del football europeo a Roma. L'ex ministro per l'integrazione è membro presso il Parlamento europeo della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e membro sostituto della Commissione per la cultura e l'istruzione. Al microfono del nostro Dario Ricci spiega quali strumenti legislativi può adottare l'Europa per far fronte al razzismo nello sport. Noi a livello europeo abbiamo già approvato una risoluzione del 2013, una risoluzione che ha messo insieme due direttive, una sulle discriminazioni e l'altra sull'integrazione per quanto riguarda l'integrazione lavorativa, ma che include anche quello del lavorativo. E le due direttive di fatto dà pieno mandato all'Unione Europea attraverso il suo l'articolo 19, di poter sanzionare, di prendere delle iniziative, quindi sanzionare tutti individui oppure anche gruppi di persone che fanno atti discriminatori. Nello stesso tempo dà atto e mandato all'Unione Europea di poter promuovere delle iniziative appunto di buone pratiche sull'integrazione a livello sportivo. Questa noi lo porteremo avanti anche attraverso la Commissione e anche attraverso l'elaborazione di progetti promossi dall'Unione Europea. Quindi anche a livello europeo la battaglia per lo Ius Soli continua, insomma. Continua, lo porterò avanti attraverso un rapporto di iniziativa a livello dell'altra commissione di cui faccio parte, LIBE, Libertà Civile, Giustizia e Affari Interni. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.